Effetto Mondo. Sometimes when you're, you know, like you're a celebrity, they're worried if something happens to you, they're going to examine it more carefully and do everything right. Allora Giulia, che cos'è che ci hai fatto ascoltare oggi in apertura? Una intervista che Rudolph Giuliani, l'avvocato principale, il capo del team di avvocati di Donald Trump nonché certo, ex sindaco di New York, che è, lo sapete, gli era stato diagnosticato il Covid, aveva sì, qualche sintomo, è stato ricoverato, uscito a tempo di record. E quindi in questa telefonata dice, ma sapete, per le celebrities, quindi lui si considera una celebrity, si fa tutto con più cura. Poi naturalmente questo ha suscitato molte polemiche, perché siamo sempre lì, sia Rudolph Giuliani che Donald Trump hanno avuto quel famoso cocktail di farmaci da come minimo 400-500 mila dollari come pacchetto di cure, e l'hanno, soprattutto Trump, Giuliani no in questo caso, l'hanno poi promesso a tutti gli americani, perché evidentemente è molto efficace benché sia ancora sperimentale, ma nessuno può pensare a una cura di massa da 500 mila dollari a testa. E quindi insomma la cosa ha suscitato un po' di polemiche, perché ieri negli Stati Uniti è stato battuto l'ennesimo record di contagi, continua a peggiorare la situazione nelle varie ICUs di tutti gli ospedali di tutti gli stati, quindi i reparti di terapia intensiva. Perciò insomma tutto quello che riguarda il Covid continua a essere molto sensibile, ripreso da tutti i giornali, che poi si concentrano, a proposito di Covid, sul fatto che dovrebbe arrivare, proprio se non fosse già ufficiale, ma i giornali per i giornali americani andati in stampa ieri sera, non ancora, l'approvazione dell'FDA di questo vaccino della Pfizer, che è poi lo stesso, ne parlano i due principali quotidiani israeliani, che dal 27 di dicembre arriverà in Israele e comincerà subito a essere inoculato, partendo, come è successo nel Regno Unito, dalle persone più anziane, poi passando alle persone che sono più a contatto con il virus, quindi tutto il personale medico e di assistenza negli ospedali. E poi si vedrà, perché a questo punto la Pfizer si chiede anche Haaretz, che è un po' più critico, sì, del Jerusalem Post, come abbia tutta un tratto questa capacità produttiva, insomma non era quella che si era detto all'inizio, si era detto che non poteva essere così non potevano essere così tante le dosi in così breve tempo, ma probabilmente insomma c'è stato forse forse la Pfizer ha usato un po' troppa cautela all'inizio, adesso naturalmente con tutte queste richieste deve aver implementato qualsiasi tipo al massimo le potenzialità produttive, naturalmente. Giulia, titoli, panoramica dei titoli principali. Sì, poi naturalmente c'è l'accordo che è stato annunciato, è stato preannunciato dal presidente Trump, e poi sul Wall Street Journal c'è la foto del premier Netanyahu con l'ambasciatore in Israele David Friedman, che nel primo giorno di Hanukkah, questa festività per chi è di fede ebraica, ha annunciato che Marocco e Israele normalizzeranno le loro relazioni. Un po' come era successo con l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, si tratta di una formalizzazione in realtà di rapporti che dal punto di vista commerciale, scrive il Wall Street Journal, erano già in parte normalizzati. Ciò non toglie che sia un passo enorme in quella pacificazione, speriamo sempre più solida e diffusa, di tutta l'area medio orientale. Ne parla anche il Jerusalem Post con molta enfasi, perché naturalmente questo è, oltre ad essere un successo dell'amministrazione Trump, è anche una buona notizia se veramente sarà un passo verso la pace, certo. Tanto che l'editoriale, l'analisi è: a surprise or a natural next step? Dobbiamo essere sorpresi, oppure è la naturale evoluzione di un percorso iniziato proprio dall'amministrazione Trump con la normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e anche l'Arabia Saudita, naturalmente. Allora, so che vi faccio ascoltare anche un altro audio. Sì, oggi questo audio, perché l'altra questione che ha dato molto, e visto che è venerdì, concediamoci una nota di leggerezza, sì, ha dato molto materiale ai comici, non soltanto americani, è questa intervista data a Yedot Aronot, che è un quotidiano solo in lingua ebraica, ma è stata poi ripresa dal Jerusalem Post e da moltissimi altri media, dell'ex di un generale in pensione, ex capo della sicurezza nello spazio per Israele, che ha detto che non soltanto gli alieni esistono, ma che Trump lo sa e che non lo ha detto al pubblico americano per non creare un'isteria di massa. E sentiamo Jimmy Kennel, che è uno dei più seguiti comici americani, come ha parlato di questo. He'd be firing off tweets like phaser guns. He'd be the Galactic Federation is a total disaster. No one has been tougher on planet Zeldar than your favorite president. Dice: non ci credo che Donald Trump non lo sapesse, perché se per caso veramente lui sapesse degli alieni, la prima cosa che avrebbe fatto è cominciare a sparare tweet come una mitragliatrice, prendendosela col tal pianeta, la tal federazione galattica. Comunque, insomma, questo generale è ovviamente un personaggio molto rispettato. Non si sa se sia diventato appunto così un ufologo nell'ultima parte della sua vita. Purtroppo è stato anche molto preso in giro, perché di fatto non ci sono dimostrazioni, benché naturalmente astronomi di grandissima fama, ne cito uno, Carl Sagan, che è lo scienziato che ha creato quel progetto della sonda che è uscita dal nostro sistema solare e ha quel famoso messaggio per gli alieni scritto con il linguaggio delle stelle. Quindi si sta cercando, è possibile che esistano naturalmente forme di vita non sul nostro pianeta, che esistano e Israele lo sappia e lo sappia anche il presidente Trump. Insomma, è un'interpretazione che si presta appunto a materiale per i comici o per teorie complottiste. Beh, sì, che vedo già all'orizzonte, ai ai ai. Giulia, giornali inglesi, sono curioso, perché siamo tutti curiosi, perché si va dritti verso una hard Brexit. Sì, guarda, sono proprio dei titoli fotocopia. The Times: prepare for no deal, dice il PM al suo paese, al Regno Unito. Johnson: tell ministers to prepare for no deal, quello che dicevamo anche ieri. The Daily Telegraph: prepare for no deal. L'unica pagina che un po' si distingue è quella del Daily Telegraph, per l'appunto, che come foto ha quella di una guardia, sapete, le guardie della regina, quelle con quel cappello molto buffo, cappellone, esatto, sì, di pelo, che bacia la nuova mascotte dal 1902, che la mascotte di queste guardie sono dei lupi irlandesi. Ieri è arrivato quello, il più giovane, insomma, e c'è questa bellissima foto della guardia, che sembra quasi anche lei un po' un lupo con il suo lungo grande cappello, e bacia invece il lupo, che insomma si fa volentieri accarezzare. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altro ultimo titolo? Sì, se vuoi. Insomma, le conseguenze del coronavirus. Oggi mi ha molto interessato l'approfondimento di Le Soir, che è un quotidiano, sì, belga. È stato calcolato che, questo purtroppo un po' lo sapevamo anche per noi, che il coronavirus ha distrutto 90.000 lavori, quelli che noi chiamiamo lavoretti, ma sono soprattutto quelli fatti da giovani che per esempio studiano, che in Belgio e in altri paesi, forse un po' a differenza dell'Italia, sono molti gli studenti lavoratori. Questi lavori, soprattutto nel settore dell'horeca, della ristorazione, sono stati distrutti dal coronavirus, non soltanto per quello che sta succedendo adesso, la stagione natalizia, ma naturalmente anche per tutto il periodo primaverile delle vacanze di Pasqua e poi quello estivo. E questa è una cosa con cui bisognerà fare i conti, perché chi poteva insomma usare questi lavori per pagarsi in parte per esempio gli studi dovrà chiedere aiuto alle famiglie, se è possibile, o indebitarsi. Quindi uno dei tanti effetti collaterali del Covid. La speranza, naturalmente, che si torni presto a tutto un altro modo di vivere e di lavorare anche, speriamo. Giulia, grazie anche per la puntata di oggi. È tutto con Pietro La Corte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Effetto giorno di questa settimana termina qua, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento. Ciao, buona giornata.